Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Come sta cambiando il design? Che cosa vuole il consumatore che oggi compra prodotti di design? Sono le domande alle quali cercheremo di dare risposta nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Tra design art e social design, i due estremi del panorama attuale, passando per autoproduzione, nuovo artigianato, produzione partecipata, ecodesign e il boom delle piattaforme di e-commerce. Diamo voce alle nuove realtà che fanno tendenza sotto il segno di un design democratico che coniuga etica ed estetica. Nello spazio dedicato al retail parliamo poi di vetrine interattive, focus sui trend dedicato invece alla robomania, quando i droni fanno tendenza. Nuovo appuntamento infine con Italian Factor, l'acceleratore del Made in Italy firmato Francesco Morace. La borsa della spesa. Cercare, ecco, ma non di fare l'atto innovativo così a tutti i costi, no, trovare una ragione per poterlo fare, insomma. Quindi praticamente molte volte io in sintesi sul design dico che il design è l'arte di inventare un'invenzione e poi di tradurla in forma. Così Achille Castiglioni, uno dei grandi maestri del design. Gli oggetti devono fare compagnia, un'altra delle sue massime storiche, parole più che mai attuali per parlare di design oggi tra crisi e nuovi canali d'acquisto, innovazione e artigianato, valorizzazione del Made in Italy, dei nuovi talenti e tutela del diritto d'autore. Per capire come sta cambiando il design, quali sono le nuove tendenze nel settore, siamo andati a cercare alcune tra le realtà più innovative in tema di progettazione, produzione e distribuzione. Realtà anche molto diverse tra loro, che raccontano tutte però il cambiamento. La prima è Made.com, piattaforma di acquisto online di prodotti di design, sbarcata da poco in Italia dopo il successo in Inghilterra e Francia. Il nostro intento è quello di rendere il design democratico, ci dice la Country Manager Italia, Marta Bulbarella. L'idea di valore che sta alla base di questo nuovo modello di business è proprio quella di, diciamo, eliminare tutti gli intermediari. Sappiamo tutti che nella catena del valore, diciamo, della produzione di design si basa appunto su un prezzo di produzione e poi tutta una serie di ricarichi che vengono aggiunti al prodotto prima di arrivare effettivamente come prezzo finale, quindi a disposizione del consumatore, quindi i grossisti, gli intermediari, gli agenti, i negozi. Tutti questi costi intermedi vengono eliminati perché appunto noi siamo in grado di contare su una rete di designer e su una rete di produttori e quindi poter effettivamente offrire ai clienti un pezzo di design a un prezzo accessibile, quindi tutto il risparmio è nelle mani poi del consumatore che riesce veramente ad avere un pezzo esclusivo comunque a un prezzo molto buono. C'è anche una dimensione collaborativa, partecipata, perché i clienti, correggimi se sbaglio, possono anche approvare e scegliere quali prototipi mettere in produzione. Certo, il cliente finale è al centro del nostro universo, dalla creazione dei prodotti, quindi attraverso vari sistemi per cui il cliente può venire in contatto con noi e esprimere le sue preferenze sui prodotti, ha poi anche una serie di feedback che ci vengono dati anche post acquisto, raccogliamo le loro preferenze e le loro esigenze e cerchiamo di adattare l'offerta per renderla veramente democratica. Sicuramente poi anche la parte di scoperta di nuovi talenti è quello di dare la possibilità veramente ai giovani di poter esprimere senza nessun tipo di investimento le loro idee. A proposito di nuovi talenti, segnaliamo un'altra realtà all'avanguardia, Open Design Italia, mostra mercato sul design autoprodotto e di piccola serie che seleziona creativi attraverso un concorso internazionale. Prossima edizione dal 22 al 24 novembre al Terminal San Basilio di Venezia. Un altro dei temi in evidenza è la valorizzazione del link tra design e artigianato. I designer di Something Good firmano oggetti in serie limitata, prodotti artigianalmente e venduti online. Alta qualità a prezzi accessibili. Giorgio Biscaro è uno dei 4 fondatori. Abbiamo deciso di coinvolgere il saper fare italiano, portandolo con la dimensione propria della nostra azienda a raggiungere dei prezzi di vendita accessibili. Sono artigiani che lavorano materiali e usano tecnologie che industrialmente sono poco coerenti con un certo sistema produttivo. Parliamo di materiali che ovviamente richiedono un certo tipo di qualità. Il consumatore oggi è maturo per riconoscere questa qualità? No, c'è ancora tanto lavoro da fare e questo lavoro secondo me va fatto in termini di comunicazione. La settimana scorsa, questo è un segnale secondo me molto forte, l'ex CEO di Google, Eric Schmidt, si è incontrato con Micelli, che è un'autorità nel campo del nuovo artigiano italiano, proprio per discutere queste tematiche. Il Made in Italy, l'Italia, è un brand e non lo stiamo comunicando bene. La mia domanda successiva citava proprio Stefano Micelli, autore, ecco. Lo ricordiamo, di Futuro Artigiano, un libro, esatto, che è diventato il manifesto, insomma, della, sì, corrente di pensiero, di produzione, di ideazione anche per quanto riguarda i designer, che punta tutto, sì, proprio sull'artigianalità come peculiarità, come scommessa anche, certo, per il Made in Italy. Ecco, voi la sentite questa investitura in qualche modo? Ci farebbe piacere, ci farebbe molto piacere. È un fenomeno ed è una cosa che si sta diffondendo sempre di più. Ci vuole anche cultura di progetto. Il vostro viene definito slow design. Vi riconoscete, sì, in questa definizione? Molto, molto, molto, perché non abbiamo fretta di crescere. C'è un ritmo sostenibile anche nell'industria. Stiamo lavorando bene con gli artigiani proprio perché seguiamo i ritmi e rispettiamo i ritmi di ognuno, compresi i nostri. E poi c'è chi ha applicato al design la logica delle piattaforme di e-commerce più innovative, come Love Design, scritto con il TH, startup per la vendita online di prodotti di home design. 1,5 milioni di visite in pochi mesi, 260 aziende aderenti per più di 6.000 prodotti. Il cofondatore Simone Panfilo. Lovedesign.com nasce dalla passione mia, di Vincenzo e di Laura, siamo i 3 fondatori, per sia il design sia l'e-commerce. Abbiamo pensato di fondere queste 2 passioni e di andare incontro a un'esigenza di mercato che abbiamo notato esserci, ovvero l'esigenza di far comprare agli italiani il design italiano attraverso una piattaforma italiana. Sembra una banalità, però in realtà prima che fondassimo Love Design, chi cercava online il design made in Italy avrebbe dovuto comprarlo attraverso delle piattaforme estere, magari statunitensi. Noi abbiamo pensato di riportare questa eccellenza attraverso un canale di vendita italiano. C'è molto lavoro nello scouting, nel cool hunting. Andiamo molto spesso in giro per le fiere di tutto il mondo a cercare dei prodotti unici, introvabili e che siano sempre funzionali. Allo stesso tempo cerchiamo di mantenere un livello di accessibilità molto alto, quindi un design sì iconico, però sempre funzionale e con un prezzo accessibile. Anche il design deve fare i conti con la contraffazione. Il tema della tutela del diritto d'autore resta fondamentale per molte grandi aziende del settore. A questo proposito vi segnaliamo la B Original Week, organizzata da Eldecor Italia, che si chiude domani a Milano. L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova. Ci sono anche progetti e prodotti che, per così dire, fanno bene al mondo. Sono ideati per contribuire a risolvere problemi come i disastri ambientali, la carenza d'acqua nei paesi poveri o più semplicemente per migliorare la vita di tutti. È il social design, Design for Other 90%, lo definì una mostra, espressione di un movimento progettuale e culturale che suggeriva questa considerazione. Ciò che normalmente intendiamo per design si rivolge al 10% della popolazione del pianeta. Sono i progetti di innovazione sociale premiati dall'Index Award, come la Solar Bottle dell'italiano Alberto Meda, una bottiglia che rende potabile l'acqua esponendola ai raggi del sole. Gabriele Diamanti ha ideato invece Elio Domestico, distillatore solare sotto forma di vaso di terracotta. Un oggetto facilmente trasportabile, realizzabile artigianalmente, che trasforma l'acqua di mare in acqua potabile. progetto completamente open source. Questa è la novità, perché Gabriele ha deciso di condividere con il mondo la sua invenzione con una licenza Creative Commons. Il progetto è libero, quindi io ho deciso di dargli una licenza open source, come avviene per alcuni software, o prendendo un po' spunto dal mondo dell'informatica, quindi è producibile da chiunque, modificabile, eccetera. Però attualmente non ho ancora rilasciato i disegni definitivi, perché ci sono alcune aggiustamenti che devo concludere prima di poter essere sicuro del suo corretto funzionamento. È un progetto mirato alle persone che sono nelle condizioni peggiori possibili nei paesi in via di sviluppo. Pertanto mi sembrava assurdo creare dei vincoli commerciali come un brevetto, eccetera, che poi sarebbero andati a ricadere in definitiva sugli utenti finali. E quindi ho deciso di rendere il progetto fruibile da chiunque. Il tuo obiettivo qual è? Che chi ne ha bisogno se lo possa produrre da solo direttamente per utilizzarlo? Sì, fondamentalmente sì. Dopodiché ovviamente non è così facile come dirlo, perché comunque introdurre un oggetto di questo tipo, per quanto semplice, è semplice da riprodurre, perché riprende schemi costruttivi e anche estetici assolutamente tradizionali, quindi semplici da comprendere. Nonostante ciò, introdurre un'innovazione in un contesto tendenzialmente rurale non è sempre facilissimo, quindi l'idea è di appoggiarsi a organizzazioni non governative che operino già sul campo e che siano in grado di istruire gli artigiani locali a costruirselo. Cambiamo argomento, questo è il momento delle segnalazioni dal mondo del retail. Oggi parliamo di vetrine interattive. Codice a barre di Cristina Lazzati. Engagement, parola chiave in questo momento per chi si occupa di retail e non solo. Un termine anglosassone che ha tante sfumature: coinvolgere il consumatore, emozionarlo, divertirlo, legarlo a sé, intrigandolo. In fondo non è un caso se lo stesso termine sia utilizzato anche per definire il fidanzamento ufficiale. Nel retail, le vetrine allestite, illuminate ad arte, fanno già parte di un corteggiamento del passante che decide se farsi coinvolgere ed entrare nel negozio o tirare dritto. Ma qualcosa è cambiato e oggi le nuove tecnologie interattive permettono anche alle vetrine di passare velocemente dal corteggiamento al fidanzamento. Lo ha fatto recentemente Adidas in Finlandia, trasformando la sua vetrina in uno shop virtuale aperto 24 ore su 24. Scomparsi i manichini, in vetrina ci sono immagini di uomini e donne a grandezza naturale che si muovono, saltano, ballano, al tocco della mano. I capi indossati appaiono anche a lato, sono standing per permettere al cliente di apprezzarne la fattura e le diverse alternative di colori o modelli. Il QR code apre le porte allo shopping grazie a codici personali che identificano il passante, trasformandolo così in cliente all'istante. In pratica, la vetrina è passata dalla frittatina d'occhio alla dichiarazione, se non d'amore, almeno di intenti. Essere e avere. Io sono di Trebio, relazione umane cyborg. Sono un droide, poco più di un interprete. E tra unità C1, un vero affare. Perché poi devo espormi così per te? Non riuscirò mai a capirlo. Goldrake! In azione! Vediamo se il giocattolo funziona. L'aggiornamento è stato completato. Sai che ti dico? Aggiungici un pizzico di rosso fuoco. Da Goldrake ad Iron Man, passando per Star Wars e Wall-E, TV e cinema, ma non solo, fumetti, libri, giocattoli, da tempo i robot popolano l'immaginario collettivo. Amici dell'uomo o macchine di distruzione sono i protagonisti della mostra Il mondo dei robot, che si apre oggi al Museo del Fumetto di Milano. È la prima traccia della tendenza della settimana. Focus sui trend.

dove c'è il barista Carl, che è un robot che serve e prepara i cocktail. Effetti per stupire o che vanno incontro a nuove esigenze del consumatore, che quindi avranno sviluppo nel futuro? Come sempre nel campo dell'innovazione, le due componenti si bilanciano, quindi c'è una parte che è assolutamente legata allo stupore e alla meraviglia che cerchiamo nelle cose che ci circondano. C'è una parte però che prevede comunque un'applicazione che possa migliorare la vita delle persone. In questo caso io vorrei far riferimento a un progetto che ha conseguito il primo premio al contest del 2013 del Electrolux Design Lab, uno studente colombiano che ha proposto un sistema di pulizia della casa organizzato tramite mini robot volanti che individuano le zone da pulire e passano sulle zone da pulire con una piccola goccia d'acqua o col detergente per poi ritornare alla base. Centinaia di questi robot volanti potranno pulire i nostri ambienti domestici in poco tempo. Quindi uno sciame golf in pratica. Esatto, uno stormo di insettini che va a pulire la nostra casa. Italian Factor. Questo è il momento del nostro talent, per così dire, a caccia dell'italianità come volano per la ripresa. È la sfida che abbiamo lanciato a imprenditori, aziende, consumatori. Lo abbiamo fatto, lo facciamo di nuovo grazie a Francesco Morace. Francesco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Oggi di che cosa parliamo? Quale nuova virtù per promuovere l'Italian Factor? Oggi parliamo di una virtù importante in particolare nel mondo delle aziende, del management, e cioè la vitalità. L'Italia e gli italiani da sempre dimostrano grande vitalità, grande energia. Purtroppo c'è un problema, come già abbiamo detto in altre occasioni, e che può esserci una versione privativa della vitalità, e cioè l'intelligenza, di cui abbiamo già parlato, che si trasforma in furbizia, cioè in una vitalità applicata al giorno per giorno, senza avere una visione strategica. Quindi questa nostra capacità di reagire anche alle situazioni spesso si riduce però a tatticismi, quindi a una visione corta, mentre invece dobbiamo rilanciare il nostro pensiero in una visione lunga. Una delle accuse che vengono mosse al sistema imprenditoriale, industriale italiano è quello di non fare rete, cioè di non promuovere visioni collaborative. Ecco, attraverso la vitalità si può attivare questa dimensione? Attraverso la vitalità si può attivare questa dimensione evitando i personalismi e cercando di creare sul territorio dei nuovi laboratori anche di innovazione. Questo per fortuna sta avvenendo, ne parla in modo straordinariamente anche convinto Riccardo Luna nel suo ultimo libro Cambiamo Tutto, perché i Fab Lab, cioè dei luoghi dove si accolgono le start-up, sono degli incubatori, diciamo, per giovani che hanno idee, che hanno progetti e che riescono a realizzarli solo se si mettono insieme o se trovano magari un finanziatore esterno. Quindi dobbiamo trasformare questa nostra vitalità in una visione progettuale e in una visione strategica, e non lavorando solo sul nostro ombelico, che è uno dei nostri vizi nazionali. Italian Factor, a sabato prossimo, Francesco. Grazie, grazie. Link, immagini e video di quanto vi abbiamo raccontato sulla nostra pagina Facebook, dove trovate anche l'intera puntata da riascoltare lì o sul nostro sito. Grazie a Fabio Cantadori in regia. A sabato prossimo. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.